i soldi su una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Non avrei mai pensato di doverlo dire, ma sono contenta che il derby sia finito a tuo favore, se no stamattina chi ti avrebbe sopportato? No, ma perché? Io sarei stato ugualmente di buon umore, certo, ecco. Sono di miglior umore, non posso esatto. Negarlo. Guarda, hai umiliato tutti i rossoneri della redazione. Ho visto che Alessandro Milan era turbato, esatto. L'ho visto turbato e mi dispiace perché è un amico, ancorché con quel cognome. Dati i miei colori, sono turbata anch'io, ma lascerò stare perché... insomma è stato un weekend complicato per me. Un weekend difficile. E allora come... di rigore io ti faccio una pernacchia subito, la vuoi? Di rigore io passerei ai contenuti della trasmissione di certamente, oggi, cara Debora ti racconterà all'inizio naturalmente un po' di scenario finanziario, non è che te lo racconto io, lo faremo insieme, chiederemo lumi al nostro interlocutore perché è una settimana molto importante quella che si apre oggi, se non altro per tutto il focus che ancora una volta gli operatori faranno sullo scenario politico che si apre dopo questo weekend, che di fatti politici è stato piuttosto ricco, dall'Austria alla Sassonia alle novità che arrivano da Madrid, e poi vedremo che cos'altro, e poi si scaldano i motori anche per la nostra tornata elettorale del 4 marzo. E non solo, ma oggi noi ci aspettiamo il varo del disegno di legge di bilancio. Lì, quindi, ti diverti tu. Nonché l'arrivo del decreto legge fiscale. Non ti ha telefonato il ministro Padoan e non ti ha dato qualche anticipazione? No, mi ha cercato, ma io stavo guardando la partita e non ho potuto rispondergli. Benissimo. Mi scuso col ministro in diretta. Ecco, ma secondo te qualche cosina per la casa la fanno? Qualche cosina secondo me ci sarà, ma poi lo scopriremo nel corso della nostra trasmissione. Sono perché vivendo. Certo, perché vogliamo parlarne diffusamente, parlando proprio degli sconti fiscali, sconti per le ristrutturazioni. Attenzione, perché ci sono delle cose, degli sconti a cui ci siamo abituati in questi anni, che sono o in scadenza o in via di riduzione, quindi siamo lì tra coloro che sono sospesi e cerchiamo di vedere se queste cose verranno prorogate, aumentate, rimodulate. Ma sai, in campagna elettorale non credo che verrà ridotto alcunché. Non so, io sarò anche un po' maliziosa, però ho questa sensazione. Ma anzi, guarda, magari saranno anche un po' più generosi, chi lo sa. Ma staremo a vedere. In ogni caso, se avete domande sui mercati finanziari, domande sulle ristrutturazioni, sui bonus per fare lavori in casa, sui sonetti, e anche se ne avete casa, anche, perché oggi c'è anche quello. È il giorno del sonetto, ovviamente. Allora, vi segnaliamo i numeri peraltro abituali. 800 24 00 24 per chi vuole chiamarci in diretta, oppure SMS e WhatsApp al 349 238 6666. E poi, cara Debora, c'è sempre la pagina Facebook. Eccoci. Salutiamo. Stavo chi proprio ci segue. Controllando come venivamo stamattina, se siamo carini o meno. Mi sembra che siamo appropriati per il lunedì mattina. Tra l'altro, chi ci segue su Facebook avrà già visto che siamo qui in tre. E tre, esatto, oggi è un numero che non so perché mi suona molto, e molto basta, bene. Basta, ormai va. Partiamo. Meteo Borsa. Il 19 ottobre del 1987, fin dalle prime ore del mattino, l'America vive la giornata peggiore della sua storia finanziaria. All'apertura di borsa le contrattazioni riguardano solo pochi titoli. Improvvisamente gli ordini di vendita iniziano a crescere. La SEC fa sapere... Sì, lo so che oggi è il 16, ma noi, richiamando questa giornata, quella del 19 ottobre del 1987, abbiamo voluto ricordare ai nostri ascoltatori appunto che sono passati ben 30 anni da quel crollo di Wall Street che registrò in quella giornata il maggior ribasso della storia in una sola seduta, come ricordava proprio questo documentario. Ne parliamo oggi, anche se in realtà il nostro, come sempre, ci concentreremo in particolar modo sui temi finanziari della settimana, però è una settimana importante anche perché abbiamo questa, tra virgolette, ricorrenza. Tu dov'eri quel giorno, te lo ricordi? Io andavo a scuola. Si giocava il derby? No, adesso sempre il derby. Ma tu non eri nemmeno nata, Debora, come fai a ricordartelo? Figurati, sei giovanissima. Ero già bella alta come adesso, però stavo finendo il liceo. Sì. È brutto dirlo, ma io già lavoravo. Allora, Salvatore Gazziano, il nostro ospite di questa mattina, responsabile strategia di investimento di Soldi Expert, e buongiorno per la nostra meteo borsa o la nostra meteo borsa? Io sarei per la nostra meteo borsa, però benissimo. Non so, facciamo un sondaggio tra gli ascoltatori, scriveteci un SMS. Vi cosa piace preferite? Di più al femminile o al maschile? Gazziano, a lei come piace di più? Pronto? Borsa, direi femminile, direi decisamente. Quindi, femminile. La meteo borsa, ottimo. Lei il 19 ottobre dell'87 dov'era? Ah, ero davanti ai monitor già allora, era un lunedì, infatti è stato ricordato a lungo come un lunedì nero, il più grande crash della storia, e tra l'altro cosa facevamo allora, per dire come l'Italia nulla cambia. Se si vanno a vedere le cronache di 30 anni fa, sono andato a rileggermi i giornali dell'epoca per un studio che ho fatto proprio su quel periodo, si parlava anche allora della lacerazione della sinistra, c'era la polemica allora fra Occhetto e un certo Massimo D'Alema, si parlava della giustizia lumaca, dei tribunali che non facevano molto. Quindi in Italia, a vedere quello che succedeva 30 anni fa, non cambiava molto, e nel mio caso già operavo in una società in borsa, e quindi al 6, quasi sgomento, quel crollo che in Italia fu solo del 6,8%. Ecco, in invece per le borse asiatiche le perdite ammontarono a quasi il 50%, meno 45% per Hong Kong, l'Australia perse quasi il 42%, la borsa di Madrid il 31%, Londra il 26%, e come ricordava appunto Salvatore Gazziano, a Milano l'indice Comit perse solo circa 6,5 punti. Che cosa aveva scatenato questa seduta drammatica, Salvatore? Guardi, ci fu anche una famosa commissione Brady, dal nome di un famoso investitore americano e politico, che cercò di capire i motivi, ma in realtà, come tutte le commissioni, anche questo non ci sembra molto poco attuale, non è che arrivarono a grandi conclusioni. Sicuramente un coacervo di cause, fra cui allora fra gli imputati ci furono, guarda caso, il cosiddetto program trading, ovvero l'utilizzo massiccio dell'elettronica, dei computer, nei cosiddetti programma di copertura da parte dei grandi gestori. Ma in realtà, forse, come hanno ben sintetizzato alcuni economisti, di colpo, per varie ragioni, fra cui anche un aumento dei tassi in Germania, il motivo era anche, bisogna ricordare, che dagli anni 80 all'87 Wall Street fu protagonista di un rally al rialzo pazzesco, i prezzi più che triplicarono in un'aurea di yuppismo, di pacci di soldi. C'era un film, Wall Street, che uscì proprio a ottobre-novembre, famoso, con Gordon Gekko, che recitava che la vita è bella, in cui il denaro era considerato ancora migliore del sesso. Quindi era un clima di grande eccitazione, quindi ci fu a un certo punto, come tanti bufali, che a un certo punto cercarono di uscire tutti insieme dalla stessa porta, e quindi questo provocò sicuramente un crollo delle quotazioni, quando vi era anche un'eccessiva compiacenza da parte di molti investitori che un crollo come quello del 29 non ci sarebbe mai più stato. Ecco, Gazziano, adesso per così distaccarci da questi ricordi, che non sono ovviamente bellissimi per i risparmiatori, anche perché noi sappiamo che ad esempio la borsa americana sta correndo oramai da molti mesi, e nonostante quello che era stato detto dagli analisti all'inizio dell'anno, che prospettavano invece un periodo difficile. E allora questa settimana, che è una settimana abbastanza complessa, con un sacco di avvenimenti, l'Austria, la Catalogna, la nostra legge di bilancio e quant'altro, come la vede? Che tempo prevede sul cielo dei risparmiatori? Ma come potremmo dire, andante mosso, per ricordare Vivaldi, nel senso che i mercati in realtà sono abituati a comportarsi, diciamo, in maniera ciclica, dove paura e avidità si alternano, ma dove è veramente difficile riuscire a comprendere quali sono poi le cause, se non ex post, di movimenti di così grande magnitudo. E in realtà questa settimana i mercati, sicuramente, come avete ben detto, sono stati condizionati in parte dalle scadenze elettorali austriache, e anche quello che sta succedendo a Madrid, dove proprio pochi minuti fa il governo spagnolo ha di fatto rigettato la risposta della Catalogna, considerandola non valida. Oggi alle 10 c'era il famoso ultimatum, dove Madrid intimava la Catalogna di dire chiaramente se avevano chiesto l'indipendenza o meno. Il leader della Catalogna, Puigdemont, ha dato una risposta un po' interlocutoria, dicendo che voleva prendere tempo e che ci sarebbe stata necessità di incontrare e trovare un accordo. Per la Spagna ha detto che la risposta non è valida, e infatti questa mattina, tra le borse europee, tra le peggiori, troviamo di nuovo l'Ibex, che perde circa il 0,5-0,6%. Più di mezzo punto. Mentre sono leggermente, moderatamente positive le altre piazze, lo segnaliamo agli ascoltatori, perché siamo partiti in questa analisi della settimana finanziaria senza dare al momento le prestazioni degli indici. Più 0,15% a Parigi, Francoforte più 0,18%, Londra poco al di sopra della parità, esattamente come fa Milano. E su Milano, naturalmente, prima di chiudere, Salvatore Gazziano, un focus speciale lo merita il tema bancario, perché perché eravamo molto preoccupati per l'apertura, in particolar modo per 5 big del settore, anzi per 4 big più generali, dopo la scommessa al ribasso che su questo settore ha fatto un gigantesco hedge fund americano, Bridgewater, che ha piazzato proprio venerdì una scommessa da quasi 800 milioni di dollari sul crollo in borsa delle banche italiane, quelle che hanno in maniera particolarmente evidente e forte il problema dei crediti deteriorati. Però mi pare che qua non sia successo niente di particolarmente devastante, per fortuna, anzi i titoli sono tutti in positivo, a cominciare dal banco BPM che guadagna 3 punti. Sì, diciamo che qui la partita è forte, lo scontro, il braccio di ferro è veramente importante, perché non è solo Bridgewater, che ricordiamo che è un fondo gestito da Ray Dalio, che è considerato l'hedge fund numero uno al mondo con più di 160 miliardi di dollari, ma molti hedge fund in questo momento, soprattutto prendendo forse a scintilla le nuove regolazioni bancarie chieste in consultazione della BCE, sono messi poderosamente a rialzo con una scommessa molto forte. Quindi nell'ultima settimana a caso l'indice del settore bancario ha perso più del 6%, e quindi questa battaglia probabilmente continuerà a essere il tema dominante dei prossimi giorni, visto l'importanza dei fondi che si sono messi a ribasso sul settore bancario italiano, anticipando un nuovo possibile scenario negativo per l'Italia. Allora, monitoreremo molto attentamente tutto ciò. Grazie a Salvatore Gazziano per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a voi. Rouge and coloring, incense and ice, perfume and kisses, ooh, it's all so nice. You're raffinatissimi stamattina, Lou Reed. Ma devo dire, Marco Lombardo e Giulia Lauricella vanno pescando delle chicche qua e là musicali, eh? Altro che i Chapter 11, cara Deborah. Che però si sono esibiti con il tema che adesso andiamo ad approfondire. Ma certo, anche perché noi abbiamo, avrei voluto introdurre, ma non ho purtroppo un file con me. Noi abbiamo una parodia molto interessante in materia proprio di bonus per la casa, sull'aria di Se telefonando, l'immortale capolavoro di Mina, scritto come sapete da Maurizio Costanzo e Ennio Morricone. Bene, noi abbiamo invece coniato una Se ristrutturando, e allora il ritornello diventa, ma certo, Se ristrutturando io potessi aver lo sconto, demolirei, dice il nostro verso, con e molta meno grazia. Guadagnerei anche un po', insomma, in termini di vantaggi fiscali. Ma certo, come ci spiegano Dario Acquaro, che è venuto a trovarci. Buongiorno. Ciao, Dario. Buongiorno. Finalmente abbiamo svelato il nome del nostro ospite di questa mattina, che gli ascoltatori stanno osservando su Facebook da minuti e minuti. L'ospite di rigore, per così dire, esatto. Perché è il terzo ospite. Però ne abbiamo anche un quarto al telefono. Certamente, che è Luca De Stefani, esperto del Sole 24 Ore, che salutiamo. Buongiorno Luca. Buongiorno a tutti. Allora, a parte quello che potrà succedere da oggi con il disegno di legge di bilancio, dove ci aspettiamo qualche manutenzione, scusate il gioco di parole, per i bonus sulla casa. Qual è la situazione attuale? Chiedo a Dario Acquaro di riassumerci esattamente cosa abbiamo a disposizione e che cosa dovremmo magari sbrigarci a utilizzare entro la fine dell'anno. Allora, buongiorno. La più importante misura in scadenza è sicuramente quella della detrazione del 50% sul recupero edilizio fino a 96.000 euro di spesa. Una misura che può essere utilizzata entro il 31 dicembre 2017, nel senso che vale per le spese pagate entro quella data, dopodiché allo stato dell'arte, al momento, senza ulteriori proroghe, per i bonifici eseguiti dal 1 gennaio 2018 la detrazione tornerà all'originario 36%, su una spesa massima di 48.000 euro. Questa la misura a regime. Quindi ci sarebbe un dimezzamento dell'importo che viene agevolato. Esatto, della spesa massima agevolata e una riduzione del... Abbastanza drastica, abbastanza insomma, 14 drastica, punti. Certo, che è poi la misura a regime. Ricordiamo che il 50%, insomma il potenziamento al 50% è stato introdotto nel 2012 e poi da lì sempre prorogato. Però se uno fa i lavori entro dicembre e paga già l'importante, anche entro dicembre, esatto, l'importante entro dicembre, perché esatto, vale la data del bonifico, il cosiddetto bonifico parlante. No? Con tutti i dettagli. Allora in questo caso può ancora sfruttare, certo, la maggiorazione al netto delle modifiche normative, perché oggi, se avete potuto leggere il Sole 24 esatto, Ore, o l'avete visto anche i lanci su Twitter, su Facebook che abbiamo fatto dalla nostra pagina 2 di Denari, avete visto che diciamo, il tema edilizio è spesso soggetto a interventi. Noi ne abbiamo contato negli ultimi 10 anni uno ogni 20 giorni, ogni 3 settimane circa, e quindi le cose cambieranno. Chiedo ben conferma. 133 quindi se ne 103. Sono state fatte di rivisitazioni, sì, della legislazione in campo edilizio. Sì. Allora chiamo in causa Luca De Stefani, perché se andiamo nel dettaglio, insomma, vorrei capire da lui cosa in questo momento sembra essere più conveniente, più vantaggioso utilizzare. Luca, il bonus mobili ad esempio sarebbe forse da sfruttare rapidamente, perché magari quello non verrà prorogato. Esatto, questo sì, sembra quello più a rischio. Quello viene prorogato, esattamente. Ricordiamo però che per sfruttare i bonus mobili non è sufficiente acquistare i mobili e farli bonifico parlante, o pagare anche con la carta di credito, perché è possibile fare questo metodo di pagamento per l'acquisto dei mobili, ma è necessario prima effettuare dei lavori in casa, nella casa dove appunto si vogliono comprare i mobili. In questo caso ricordiamo che non basta la semplice modifica o sostituzione di una presa mal funzionante, che avrebbe comunque la detrazione del 50% questo singolo intervento, ma è necessario effettuare dei veri e propri lavori edili, che sono le manutenzioni straordinarie, le ristrutturazioni edilizie o anche l'acquisto ad esempio di un'abitazione completamente ristrutturata. Ecco, in tutti questi casi quindi devo andare in cerca della manutenzione straordinaria vera e propria, che può essere ad esempio il rifacimento della parete esterna con la pittura, cambiando i colori. In questi casi posso avere il bonus mobili acquistando, appunto. Quindi non vale da solo il bonus mobili. Non vale da solo. Il più generoso in assoluto è l'eco bonus, però quello che rende dal punto di vista energetico più efficienti le nostre abitazioni. Luca. Sì, corretto. Qui abbiamo una detrazione pari in generale al 65%, abbiamo dei limiti di spesa anche molto elevati, perché ad esempio per l'installazione di pannelli solari, che è la produzione di acqua calda, abbiamo 96.000 euro anzi di detrazione, di importo massimo di spesa, che corrisponde a una detrazione di 60.000 euro, ma poi si possono cambiare le finestre, cambiare appunto gli infissi, sostituire, mettere dei cappotti all'abitazione, quindi tutti quegli interventi che mi portano una riduzione del risparmio energetico. Ricordiamo tra gli ultimi, molto interessanti e abbastanza popolari, è l'installazione di pannelli che riducono la tramittanza termica, quindi ad esempio anche una tenda da mettere esternamente alla casa con dei bracci, comunque deve essere collegata con la casa, questa riduce i raggi solari verso l'abitazione e quindi dà un risparmio energetico globale. Quindi diciamo il ventaglio delle cose agevolabili è abbastanza ampio, per quanto si debba sempre trattare di interventi, diciamo appunto la tinteggiatura delle pareti non basta, ecco, però il ventaglio è abbastanza ampio. Tu citavi ora ad esempio anche l'installazione di una tenda, di una copertura, può essere già sufficiente, ma anche per esempio la sostituzione di una serranda di un box, se è pertinenziale. Però attenzione, mi pare, caro Mauro, perché lì deve esserci un tecnico che ti dice quanto sperperavi prima in termini energetici e quanto andrai a risparmiare, no? Per cui anche lì non è automatico fare il lavoro e ottenere, De Stefani, l'incentivo fiscale. Qui dobbiamo fare comunque una pratica all'Enea, devono essere ad esempio per le finestre deve esserci una certificazione da parte del produttore che sono delle finestre con una tramittanza termica particolare. Ecco, ad esempio nel particolare per le finestre sembra che nella legge di stabilità o comunque nel decreto fiscale si voglia introdurre l'eliminazione del bonus del 65% per la sostituzione delle finestre e farle rientrare invece con il bonus del 50%. Che comunque non è che disdegniamo. No, anche certo. Se certamente, come sempre, come ci è capitato di dire spesso a due di denari, se c'è uno sconto, perché lasciarlo lì? Cerchiamo di utilizzarlo, se ne abbiamo diritto, esatto. Se ne abbiamo diritto utilizziamo. Ci sono degli sms, dei whatsapp, esatto, dagli ascoltatori. Tanti. Senti, richiamiamo un po' la famosa questione che a Luca De Stefani piacerà tantissimo, della capienza fiscale, perché vedo che molti sono un po' turbati sempre da questa prospettiva di non pagare abbastanza tasse per poterle risparmiare se dovesse fare un lavoro importante in casa di questo tipo, perché sono effettivamente lavori dal punto di vista economico-finanziario impegnativi, quindi è chiaro che il vantaggio fiscale te lo porti a casa volentieri, ma dipende anche dall'entità dell'IRPEF che versi, no Luca? Sì. Praticamente, ecco, non sono dei contributi a fondo perduto. Non è un incentivo come poteva essere l'incentivo che il GSE dava per chi installava gli impianti fotovoltaici, dove per il semplice fatto di produrre l'energia con l'impianto fotovoltaico ottengo un incentivo, un bonifico vero e proprio che mi arriva da parte dello Stato, da parte del GSE. Si tratta di detrazioni fiscali e quindi per poterne beneficiare devo prima pagare le tasse, cioè nel senso avere un reddito che mi produca delle tasse da pagare, e al posto di pagare queste imposte utilizzo la detrazione fiscale, che è appunto questo bonus. Certo. Peraltro, sì, prego Luca, prego. No, ecco, parlavo per il discorso del è possibile da lo scorso anno cedere queste detrazioni per chi non ha la capienza, cioè per chi fa dei lavori nelle parti comuni condominiali, purtroppo solo, questo è il limite ad oggi nella normativa attuale, perché se c'è un condominio che fa dei lavori di risparmio energetico nelle parti comuni condominiali, per i singoli condomini che sono incapienti, ma la cosa è valida anche in alcuni casi per i non incapienti, ma solo per le parti comuni e basta, è possibile cedere questo bonus, questa detrazione fiscale, o al fornitore che ha effettuato i lavori nella parte esterna dell'edificio o comunque nelle parti comuni, oppure cedere anche ad altri soggetti, tra cui anche le banche e gli istituti finanziari. E qui infatti ne abbiamo parlato, ma ci aspettiamo che nel disegno di legge di bilancio, chiedo conferma a Dario Acquaro, qualche cosa liberalizzi un po' questa possibilità. Cioè, io sono un incapiente, non ho abbastanza IRPEF per avere tutto lo sconto IRPEF che potrei avere visti i lavori che ho fatto fare in casa mia, e allora potrei cederlo ad esempio a Dario, che essendo molto molto ricco e quindi avendo anche un IRPEF molto capiente può farsene carico. Questo però non è ancora possibile per i lavori singoli, ma solo per il condominio. Ecco, hai centrato il punto, perché è proprio uno degli aspetti allo studio, nel senso si pensa di estendere l'accessione anche ai fornitori e ad altri soggetti privati, anche per i lavori su singole unità abitative, nel senso che l'accessione del 65% adesso, come diceva Luca De Stefani, è possibile soltanto in condominio, in sostanza, per i lavori sulle parti comuni. Si pensa di estenderla anche alle singole unità e di affiancare a questo anche l'istituzione all'interno del Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica di una sezione dedicata per offrire garanzie al finanziamento concesso dagli istituti di credito, ecco, per agevolare anche, certo, da questo punto di vista. Quindi lo scambio eventualmente potrebbe essere fatto, che ne so, all'interno del nucleo familiare, ci sarà pure, sì, qualcuno in famiglia che ha un IRPEF un po' più, ecco, alta della tua, ecco, magari di poco, però. Allora, cercate, intanto che voi cercate un parente con un IRPEF molto generoso, esatto, ma potete continuare a scriverci, naturalmente, a telefonarci. Io me la scambio con te, guarda, sai che ti dico? Bisogna vedere se io sono capiente o incapiente. In questo momento, non so, un milanista è sicuramente incapiente rispetto ai punti di un interista. Questa è proprio brutta. Continuate a scriverci SMS, sei WhatsApp, proprio una brutta persona. 349-238-6666, oppure chiamateci per intervenire in diretta 800-24-0024. E adesso Debora, le borse. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di denari. Questa non la capisco, ma mi adeguo. Ma è una canzone di speranza, dice qualcosa potrebbe cambiare in meglio, quindi noi ci aspettiamo che col disegno di legge di bilancio arrivino delle agevolazioni in più, e naturalmente qualcosa può cambiare in meglio anche in casa nostra, perché facciamo le ristrutturazioni. Devo fare, scusami Debora, chiedo, prego, scusa anche a Luca De Stefani e a tutti gli ascoltatori, voglio fare una segnalazione importante. Sono molto serio in questo caso. Le false email, fate molta attenzione. Ancora venerdì scorso l'Agenzia delle Entrate ci ha comunicato che continuano ad arrivare delle email a noi cittadini che sembrano essere dell'Agenzia delle Entrate ma non lo sono. Ad esempio, mittenti come assistenzaweb@agenziaentrate.it oppure messages@mailagenziaentrate05.top. Ecco, fate molta attenzione, perché spesso queste mail contengono il software del malware, come si chiama in gergo. Allora, consiglio duplice: ascoltate sempre Enrico Pagliarini qui a Radio 24, che vi spiega con 2024 cosa fare. Attenzione, fate attenzione al mittente: è rarissimo che l'Agenzia delle Entrate mandi questo tipo di comunicazioni. Piuttosto fate un giro sul sito dell'agenzia, verificate l'indirizzo, non è affatto quello che compare in queste email, potreste anche essere vittima poi di qualche iniziativa malevola, appunto, di software. Benissimo. Quindi attenzione alle false email dell'Agenzia delle Entrate. Torniamo allora invece a parlare di strutturazioni, Deborah. Ci sono diversi ascoltatori che chiedono. Assolutamente, infatti è un tema sempre molto interessante, non solo per il fatto del risparmio fiscale, ma perché abbiamo spesso e volentieri descritto gli italiani come dei grandi amanti della casa, per cui se possono renderla più bella sono ben contenti, e se ci possono risparmiare anche sopra lo sono ancora di più. Però qualche volta il meccanismo di funzionamento di queste agevolazioni fiscali non è sempre chiaro. Jeanette da Bergamo, che salutiamo, peraltro due ascoltatori bergamaschi. Jeanette, buongiorno. Buongiorno a voi. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo chiedere un'informazione di questo tipo. Io mi accingo adesso a fare un intervento di ristrutturazione. Questo intervento si prolungherà, diciamo, oltre la fine del 2017. Quindi volevo capire da voi, visto che io ho già versato degli acconti e le autorizzazioni comunali sono ancora in corso di delibera, se questi acconti sono comunque, rientrano comunque nel tema dell'agevolazione, certo, fiscale, e se poi diciamo la parte restante oltre il 2017 chiaramente non potrà più essere detratta, certo, se supera il tetto dei 50.000 euro, dei 98.000 euro. 96.000. Grazie Jeanette. Peraltro non abbiamo neanche ricordato, Mauro, forse vale la pena fare un piccolo ABC anche in questo senso: che cosa bisogna fare prima di partire con il lavoro di ristrutturazione, perché non vorrei che uno si chiami il professionista suo amico e non fa tutta la richiesta di autorizzazioni necessarie magari all'amministrazione comunale, e invece anche quello va, esattamente, va ricordato con non chi... so se Dario vuole rinfrescarci la memoria, e poi passiamo a Luca per le indicazioni all'ascoltatrice Jeanette. Certo, naturalmente dipende sempre dal tipo di intervento, perché ci sono gli interventi più strutturali e interventi insomma meno strutturali. Il caso dell'ascoltatrice mi sembra sia abbastanza strutturale, visto che ha parlato anche del superamento del limite di spesa. Ad ogni modo, il limite di spesa agevolato rimane quello. Le autorizzazioni naturalmente devono essere richieste e ottenute. Per quanto riguarda le spese che saranno pagate poi, successivamente nel 2018, vedremo se l'agevolazione sarà prorogata con questi standard o se si ridurrà il limite di spesa, ma in realtà si pensa che avverrà la proroga, come è avvenuto insomma negli ultimi 5 anni, quindi sostanzialmente rimarrà questo, anche perché siamo fiduciosi. I bonus casa tirano, diciamo la verità. Sì. Ma soprattutto in campagna elettorale, io lo ribadisco, ma sei maligna oggi. Io stamattina sono maliziosa, ma figuriamoci se proprio quest'anno si inventano di toglierli. Sarei veramente sconfessata incredibilmente. Comunque. No, anzi, è uno dei pochi, insomma, bonus fiscali che effettivamente ha dato una spinta, insomma è stato usato con successo ai fini della crescita, diciamo. Adesso sì, senza citarli. E anche ai fini del ringiovanimento del nostro patrimonio e anche edilizio, per scoraggiare, che è un po' vecchiotto. Magari, e anche per scoraggiare magari la tentazione di non far transitare queste spese nel fisco. Vedi che non sono solo io la maligna. No, io dico perché uno a volte, sai come dico sempre, si scorda di dichiarare che ha fatto un lavoro, si scorda di dirlo al fisco, ma non per cattiveria, può capitare. No, buona fede sempre. Filippo da Bergamo è in linea per un'altra domanda. Buongiorno Filippo. Sì, buongiorno. Io chiamavo per chiedere un'informazione. L'anno scorso ho ristrutturato casa e ho superato il tetto dei 96.000 euro, che da quello che ho capito è il tetto massimo. Sì. Volevo chiedere se c'era qualche possibilità per scaricare qualcosa d'altro o si ferma completamente quello che è il... Tra l'altro lei ha già fatto tutto l'anno scorso, quindi ha già introdotto in dichiarazione dei redditi tutto il beneficio fiscale che si spalmerà lungo una decina d'anni. Luca De Stefani. Sì, questo è un tema abbastanza classico, perché appunto i limiti per la ristrutturazione, soprattutto prima dell'aumento 96.000 euro, erano comunque limitati, perché se pensiamo alla ristrutturazione edilizia, 48.000 euro è un importo proprio al limite, diciamo. E allora ecco che purtroppo l'Agenzia delle Entrate dice che se si tratta di una mera prosecuzione di un intervento già eseguito precedentemente, il limite è unico. E quindi consiglio all'ascoltatore, per vedere il caso specifico, di fare un nuovo intervento proprio, cioè mi spiego, se i lavori che vengono fatti nell'abitazione sono un nuovo intervento vero e proprio di ristrutturazione oppure di manutenzione straordinaria, ad esempio ho rifatto completamente il bagno con la modifica anche dell'impianto idrico, l'ho chiusa lo scorso anno pagando i 96.000 euro, posso chiudere la CILA, chiudere l'autorizzazione presso il comune appunto per la manutenzione straordinaria, e posso riaprire un'altra CILA, un'altra SCIA per la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione di un'altra zona. In questo caso parliamo di un intervento vero e proprio nuovo, e quindi abbiamo diritto fino a fine di quest'anno altri 96.000 euro, oppure se partiamo il prossimo anno a fare i bonifici abbiamo diritto ai 48.000 euro. Poi magari De Stefani, adesso abbiamo un impegno, ma magari gliela trasferisco per la risposta appunto questa domanda all'ultima parte di Due di Denari. Se questi 96.000 euro, abbiamo dedotto che l'ascoltatore li abbia spesi tutti quanti completamente per la manutenzione straordinaria dell'immobile, ma magari una quota era di relativa a lavori di efficientamento energetico, e magari dividendo in due la parte, non lo so, Allora no, lì purtroppo ha già fatto i bonifici sicuramente parlanti con l'articolo di legge, quello per la ristrutturazione edilizia, quindi l'articolo 16 bis del TUIR, e quindi non può fare nessun tipo, certo, di variazione. Però questa precisazione è utile anche per fare spiegare un attimo la questione della domanda precedente. Facciamo così, dopo De Stefani, okay. aspetta lì. Cara Deborah, essendo lunedì, vado a declamare il sonetto del lunedì. Ti prego, messere. Voi che ascoltate in rime strambe il suono di questa trasmissione dal dire raro, avete avuto Meteo Borsa in dono e poi le detrazioni con Dario Acquaro. Sapete che se il mio sonetto in tono vuol dir che è lunedì, lo giorno caro a chi li lumi attende dal patrono, l'esperto che risponderà all'ignaro lettore che risposte aveva cercato. Le trova in questa radio e sul giornale, nel bell'inserto che ne dà gran strascico. Seguiteci in edicola o in formato adatto al nostro tempo, il digitale. Io, ligio alla tradizione, v'annuncio il traffico. Di denari. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina, non si poteva entrarci dentro. Questo lo sfonda il budget dei 96.000 euro, sto lavoro qua con la casa di Sergio Endrigo. Questa qui devo dire me l'aspettavo un po', non mi hanno sorpreso i ragazzi questa volta. Me la cantava sempre mio papà. Allora, ci sono tante domande, vero? Guarda, SMS, WhatsApp. Dunque, un signore chiede per SMS: non ho reddito ma ho soldi da parte, posso usufruire delle detrazioni? No, come ci ha spiegato Luca De Stefani, insomma, se non c'è IRPEF non ci può essere detrazione, che significa poi sconto dall'IRPEF. Esatto. A meno che la trasferibilità dell'incentivo fiscale non lo varino con la manovra. Però al momento questa trasferibilità ce lo chiede anche un altro ascoltatore, Cesare da Milano, che abbiamo in linea, vuole sapere se può trasferire lo sconto tra la moglie e il marito. Buongiorno Cesare. Non così mettere il dito, però lo sconto buongiorno, magari sì. Buongiorno a tutti, grazie per avermi dato questa possibilità. Dunque, il problema è in questi termini. Mia moglie ha ereditato qualche anno fa una casetta da sua madre, sì, quindi la casa intestata solo a lei, a cui ha dovuto rifare il tetto, perché i vicini ovviamente avevano problemi di umidità, ha dovuto rifare per forza il tetto. Poi recentemente purtroppo è venuto a mancare anche suo padre e ha ereditato non lavori da fare ma lavori già fatti nel condominio di suo padre, e quindi l'anno scorso, al momento in cui abbiamo presentato il 730, l'operatore ha detto a mia moglie che è arrivata al limite massimo di IRPEF da scaricare. Sì. E come potrebbe mia moglie poter passare a me, che ho ancora abbastanza disponibilità di per non perderli, certo. Sentiamo Luca De Stefani, io temo che però non ci sia molto margine secondo le norme attuali, è così Luca? Sì, allora diciamo che la norma generale prevede che la detrazione possa essere beneficiata dal proprietario, dal futuario, dal non proprietario, da chi ha un diritto reale praticamente sull'immobile. Però anche chi non ha nessun diritto reale sull'immobile e è familiare convivente del soggetto che invece ha il diritto sull'immobile, se paga la spesa può avere il bonus, con una particolarità molto importante che l'Agenzia delle Entrate ha confermato anche lo scorso anno, che la convivenza deve essere precedente all'inizio dei lavori e nell'immobile che si sta ristrutturando. Perché ricordiamo che uno può ristrutturare anche una seconda casa, non è che deve viverci in quella seconda casa. E quindi in questo caso bisognerebbe portare le residenze nella seconda casa, convivere in quell'abitazione lì. Quando si convive precedentemente all'inizio dei lavori con il familiare che ha la proprietà dei muri, ecco che posso iniziare a fare i bonifici parlanti intestati a io che sono familiare convivente e posso avere la detrazione. Anche se non sono proprietario, quindi questo è il senso. Però deve essere la casa di abitazione, quella che chiamiamo malamente prima casa a volte, giusto? Sì. Ecco, può essere anche una seconda casa, però perché può essere anche considerata una seconda casa ai fini dell'acquisto o anche ai fini dell'IMU, però ci vuole la convivenza, ci può essere anche il domicilio, non serve per portare la residenza vera e propria, però ci può essere anche il domicilio prima dell'inizio dei lavori. Quindi diciamo che in realtà delle situazioni di portabilità del beneficio fiscale sono già esistenti, De Stefani. Sì, sono già distinti. L'importante è fare il bonifico corretto, l'importante è avere la fattura intestata al soggetto che ha la spesa, anche se poi qui l'Agenzia delle Entrate ha dato dei chiarimenti insomma abbastanza estensivi anche su questo aspetto qui, però ricordiamo la formalità, perché poi in ambito dei controlli è facile incappare in controlli magari pignoli, dove la fattura intestata a un soggetto sbagliato, un bonifico intestato a un soggetto sbagliato, può creare dei problemi nella detrazione. Oh, ma caro Luca, guarda, neanche l'avessimo chiamato. Dai il destro proprio alla telefonata di Stefano da Perugia, che ha un problema di errore nei bonifici. Buongiorno Stefano, la domanda. Buongiorno a voi. Il mio problema è proprio questo. Io ho fatto una ristrutturazione l'anno passato, ho fatto tutto, autorizzazioni, tutto in regola. Nel momento che sono andato a fare il bonifico, ho commesso un errore nella compilazione, fatto il bonifico online e ho messo praticamente il codice fiscale di mio padre, perché lui è il proprietario, sia come beneficiario che come detrattore. In realtà dovrei dovuto mettere la partita IVA del muratore, dell'impresa. Dell'impresa, certo. E vediamo se si può rimediare. De Stefani? Non è un caso non trattato finora da parte dell'Agenzia delle Entrate, però in base alle... Facciamo un bel precedente, lo facciamo noi. Precedente, esatto. Per analogia con alcune risposte date, sicuramente il nostro ascoltatore può rifare... ottenere indietro i soldi dall'impresa con un bonifico normale e rifare il bonifico parlante. L'Agenzia delle Entrate l'ha chiarito, l'ha detto ancora qualche anno fa nel 2012, ha risolto moltissimi problemi e quindi ad esempio la restituzione dei soldi da parte dell'impresa e poi fare il bonifico corretto. Altri casi in questo caso qui non li vedrei, perché purtroppo c'è tutto un automatismo da parte delle banche che nel momento in cui fanno un bonifico di questo genere pagano un ritenuto da conto e quel codice fiscale là viene comunicato, certo, all'Agenzia delle Entrate. Quindi anche se è passato molto tempo lui può chiedere all'impresa se questa dà la sua disponibilità di fare questa operazione, uno storno della cifra ed eventualmente rifare... Nella risoluzione del 2012 le detrazioni non hanno dato nessun limite di tempo. Diciamo che però le rate lo scorso anno, ad esempio, è stato fatto il primo bonifico lo scorso anno, è persa perché il bonus viene ripartito in 10 rate, ricordiamo, la prima rata probabilmente eviterei di portare in detrazione al corretto beneficiario. Ma se oggi viene rifatto il bonifico e viene fatto corretto, partendo dalla seconda rata magari, ecco, sicuramente l'operazione può essere fatta. Allora, abbiamo un minuto ancora, Deborah, anzi meno, quindi sì. Il momento, o ci danno un calcio di rigore, oppure, perché all'ultimo minuto, oppure non riusciamo ad accontentare Marcello da Cremona. Ma noi li accontentiamo, perché tu non lo sai, ma Luca De Stefani nel pomeriggio, in genere, quando fa le trasmissioni con noi, si mette a lavorare ancora per noi, quindi sarà disponibile a rispondere a tutte le domande degli ascoltatori, anzi sarà anche più attento, perché ci potrà studiare appunto con più attenzione per l'appunto, quindi potete scriverci a duedidenari@radio24.it, noi saremo pronti ovviamente a darvi tutta la nostra consulenza possibile. E allora grazie a Dario Acquaro, grazie a Luca De Stefani, e Due di Denari torna domattina. Buona giornata.